al tour con Ivan Basso. Ancora sulle strade del Tour de France con il racconto in esclusiva di Ivan Basso per Radio 24. Oggi sedicesima tappa con l'arrivo a Gap vinta da Ushvod, ma è stato Alberto Contador a 10 km dall'arrivo ad accendere la tappa sul Col de Mans e poi Cadel Evans ha rintuzzato l'attacco. Alla fine Evans ha guadagnato qualche secondo su Contador e i due hanno allungato su tutti gli altri favoriti. Benvenuto Ivan Basso. Ivan, oggi tappa dura, un minuto dai migliori, Sì, chiaramente per me è stata una giornata negativa, nel senso che non è andata esattamente come io mi aspettavo, come la mia squadra si aspettava. Questo non sposta sicuramente le ambizioni e il modo di interpretare le prossime tappe. Chiaramente è una giornata da così mettere alle spalle e pensare a domani e dopodomani e tutte le tappe che restano per arrivare alla fine del tour. Ti aspettavi che proprio questa salitella, il Col de Mans a 10 km dall'arrivo, potesse scatenare la bagarre con gli attacchi di Contador e poi il contrattacco di Evans? Mi aspettavo sicuramente una tappa difficile. Io credo che è risultata ancora più difficile per il maltempo, ha piovuto all'ingresso di Gap, quindi per prendere questa salita si sono complicate le cose, la discesa bagnata per andare al traguardo ha ulteriormente complicato le cose per chi magari ha delle difficoltà sul bagnato, quindi sicuramente hanno dimostrato Cadel, Evans, Contador e Samuel Sanchez di essere in questa giornata superiori e i distacchi sono stati anche ulteriormente accentuati dal maltempo, dalla discesa, quindi chi non è abile ha pagato qualche secondo di troppo. Anche un po' di sfortuna perché ti si è rotta la sella in salita, vero? Sì, però io credo che quello è stato una buca che ha creato questo problema, non c'era il tempo di cambiare la bicicletta, non è sicuramente quello il motivo della mia prestazione, la prestazione è sicuramente non esattamente quello che io volevo, come ho detto, ma non bisogna farne un dramma, è sufficiente guardare avanti e pensare a domani che è un'altra giornata difficile. Come vedete è un tour molto strano, molto particolare, che tutto può ancora succedere, quindi bisogna essere ottimisti e guardare alle prossime tappe con la fiducia e con la voglia di fare bene. Domani si arriva a Pinerolo, immagino tanta voglia di far bene appunto davanti ai tuoi tifosi, no? Sicuramente per noi la Liquid Sierra non è una squadra italiana, quindi il fatto di arrivare in Italia con il tour è un motivo in più per cercare di fare bene e quindi insomma cercheremo di farci trovare pronti. E allora Ivan, ti aspettiamo nel dopo tappa domani sera come sempre qui a Radio 24. Grazie, buona serata.